Mega Big Bubble, Mega Playmobil, mentre vola Dragon Ball, Mega Mega Pokémon, pa pa pa pa pa, pero pero bom, pa pa pa pa pa, pero pero Bubble, Beep Beep Bubble, Beep Beep Bubble, Chupa Chupa, Pikachu, Scoo Scoo, Bidu, Papazze, Bubble, Bimbo, Cool Patato. La Bubble Ninja Turtle, 7 vite come un gatto, con le scarpe Power Ranger, ve Velociraptor, trendy fashion, ciabattine, beve volate con Nesquik, con i trucchi delle braccia e dei fumetti delle Winx. Bumblebee, Bumblebee, Bumblebee, Bumblebee, Bumblebee, su super mega ball, le baffi, voglio un Happy Meal. Mega, mega, mega, Big Bubble, Mega Playmobil, mentre vola Dragon Ball, Mega, mega, Pokémon, pa, pa, pa, pa, pa, pero, pero, bom, pa, pa, pa, pa, pa, pero, pero, bom, pa, pa, pa, pa, pa, pero, cose patatine alla tortiglia Super Pippo. Faccio bolle con lo spirito Naruto, della volpe a 9 code, bu bu bu bu bu. Gormito bimbo, divo divo divo, tiro mine in testa al Gen Spider-Man, Spider Spider Spider Spider Spider Spider-Man. Mega mega mega Big Bubble, Mega Playmobil, mentre vola Dragon Ball, Mega mega Pokémon, pa pa pa pa pa, pero pero bom, pa pa pa pa pa, pero pero. Mega mega mega Big Bubble, Mega Playmobil, mentre vola Dragon Ball, Mega Mega Pokémon, pa pa pa pa pa, pero pero bom, pa pa pa pa pa, pero pero bom, pa pa pa pa pa, pero pero bom, pa pa pa pa pa, pero pero. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mega Mega Mega Big Bubble, Mega Playmobil, mentre vola Dragon Ball, Mega Mega Pokémon, pa pa pa pa pa, pa.